A tempo di sport con Carlo Genta. Buonasera a tutti, Giorgio De Luca in redazione, Carmelo Lauricella in regia. È cambiata anche l'ora, fuori c'è il sole, fin troppo facile innamorarsi a primavera, soprattutto a Roma, ho l'impressione. Io continuo a pensare che l'Inter vincerà questo scudetto, ma vi dico pubblicamente che in questa volata finale, perché a questo punto ha tutte le caratteristiche per esserlo, tiferò per la Roma. Forse non mi riesce, perché sennò sarò costretto anch'io a, come fanno molti tifosi, a sbriciolare le partite in 100.000 episodi invece di leggerle tutte intere. No, simpatizzerò per la Roma perché è una squadra bellissima e nel fiore del suo ciclo. La splendida ragazza di Spalletti è diventata grande con Ranieri, che le ha dato un po' di cinismo, le ha dato un po' di cattiveria in più, e poi hanno dato alla Roma anche un giocatore che prima non c'era, come Luca Toni. Credo che quanto abbiamo visto ieri pomeriggio all'Olimpico, che Roma-Inter, che il giorno dopo Roma-Inter su un fronte e sull'altro, sia l'argomento chiave di discussione di questa domenica, anche con gli ascoltatori. 800 24 00 24, sono proprio curioso di sentire una vostra lettura di Roma-Inter, perché alla fine io non mi ostino a non vedere un Inter in crisi, un Inter in difficoltà. Non ho visto un Inter distrutta ieri all'Olimpico, non ho visto un Inter che si è arresa ieri all'Olimpico, ho visto un Inter cui non gira proprio nulla per il verso giusto. Oltre a una Roma che ha giocato un primo tempo memorabile, una ripresa in cui è stata anche fortunata nel momento in cui forse avrebbe pensato al pareggio, nel momento in cui stava già pensando a un pareggio che tutto sommato poteva essere un risultato non sconveniente, come aveva sottolineato lo stesso Ranieri, e invece si è trovata a vincere questa partita con pieno merito, sia chiaro, per carità. 800 24 00 24 è il numero verde per voi, messaggi 349 238 6666. I risultati di oggi invece, un pomeriggio non così brillante come spesso accade la domenica successiva ad un turno infrasettimanale, le energie cominciano a essere pochine, non se ne sono viste né di energie, né di gol, né di gioco, né di nulla in Chievo-Parma, finita 0-0, la più classica delle partite inutili. La Fiorentina invece ha risposto sul campo a quanto sta succedendo nella stanza dei bottoni tra Della Valle, Prandelli, Striscioni e Tazebao in curva viola, Cesare se ci lasci non vale. Credo che qui il rapporto sia, non so, colpi di scena sono sempre dietro l'angolo, ma la sensazione è che qui il rapporto sia, si stia esaurendo tra la proprietà viola e Cesare Prandelli. La Fiorentina però risponde sul campo a tutto questo e ai dubbi del suo allenatore, del suo proprietario. 4-1 sull'Udinese, 4-1 tondo gol di Vargas su punizione con una bomba da 25 metri almeno al 37esimo. Fiorentina che subisce il contropiede dell'Udinese al 41esimo, contropiede condotto sulla destra da Di Natale, cross basso, Pepe arriva a rimorchio a centro area e di piatto segna un rigore in movimento. Nella ripresa è solo viola il colore dominante, il colore di moda. 11esimo, Andanovic che non trattiene un tiro senza eccessive pretese di Santana dalla sinistra, Gilardino in tappina per il 2-1. Quindi al 23esimo Gobbi che serve Santana per il 3-1, al 39esimo Jovetic che sembrava Batistuta su un cross molto bello per la verità da destra di De Silvestri. Jovetic ha fatto un gran salto colpendo perfettamente la palla di testa, gol da centravanti vero più che da fantasista, qual è questo bravissimo giocatore. 39esimo 4-1, partita che finisce in ghiaccio. Pomeriggio molto sofferto per la Juventus che tra mille contestazioni iniziate già dalla mattina con i tifosi in agitazione e in fermento. Partita molto difficile, molto, molto tesa contro l'Atalanta, molto brutta anche se vogliamo. Partita sbloccata al 30esimo su punizione da Alessandro Del Piero, punizione magnifica, non si vedeva un gol su punizione della Juventus forse dall'anno scorso. È il gol che sblocca la partita, si fa male Diego 5 minuti dopo il gol al 35esimo ed entra al suo posto Giovinco. L'Atalanta pareggia con il cognato di Del Piero, cioè Amoruso, al 45esimo, lancio di Padoin, difesa della Juventus piazzata come può succedere solo nei film dell'orrore calcistico. Amoruso recupera la palla e batte Manninger con un diagonale. Nella ripresa per la Juventus è solo paura, per la Juventus è solo paura, per l'Atalanta forse eccessiva timidezza. Atalanta che non riesce a trovare il gol del KO, il gol lo trova invece al 37esimo la Juventus di nuovo, indovinate con chi? Con il giocatore più chiacchierato, discusso e contestato, Felipe Melo, cross da destra ancora di Del Piero, colpo di testa di Filippo Melo, il brasiliano che aveva segnato nella partita d'andata, lui si vorrebbe giocare tutte le domeniche contro l'Atalanta, gol del 2-1 e Juventus che torna a vincere, che riprende un filo di colore. Tra poco sentiamo Del Piero, poi naturalmente sentiremo tutte le voci, compresa quella di Zaccheroni. Livorno-Bari finisce 1-1, il Bari che aveva praticamente la partita in pugno. Il gol al 25esimo è stato tra l'altro il primo gol di giornata. 25esimo del primo tempo, gollonzo se ce n'è uno, con una deviazione fortuita di Allegretti su un tiro senza molte pretese di Meggiorini. Questa pallaccia scavalca, inganna Rubinho per il gol dell'1-0. Poi, come avete sentito anche prima nel GR, molta tensione a bordo campo con la tifoseria livornese che fa esplodere un paio di petardi, Saccani che ferma tutti per un paio di minuti, e poi nel finale il gol di Tavano, molto bello. Tavano in questa stagione non è stato un fattore per il Livorno, e questo spiega anche in parte la classifica che condanna i livornesi al momento. Al 40esimo però Tavano trova un colpo di genio, in mischia colpo di punta da calcetto e gol dell'1-1. Il Napoli continua a sognare e fa benissimo il quarto posto, una partita in questo caso non bella, certamente molto diversa da quella che il Napoli ha giocato giovedì sera contro la Juventus. Decide il gol di Cannavaro su un cross basso di Lavezzi, difesa del Catania che un po' dorme, lascia filtrare quel pallone da centrale a Cannavaro, segna l'1-0. Il Cagliari torna a far punti 1-1 contro la Sampdoria a Genova. Al terzo minuto della ripresa, dopo un rimpallo, un piatto di Guberti che porta in vantaggio i doriani. Al 36esimo punizione di Conti, colpo di testa di Nenè sul filo del fuorigioco. Gol molto bello, partita che finisce con un sacco di nervosismo in campo, solo in parte spiegabile, espulsione al 46esimo dello stesso Nenè per una tenaglia, una mossa da jiu-jitsu su Pioli, espulsione ineccepibile quella decisa davanti. Siena-Genoa finisce 0-0, qui da segnalare un gol annullato giustamente a Ghezzala per fuorigioco al 42esimo del primo tempo, ma anche qui poco calcio in campo. Forse c'è Gasperini con Sky, magari ci spiega qualcosa. A non concretizzare, a non concludere, per quanto invece riusciamo a fare molto in casa, e quindi magari sotto profilo dei risultati ci viene a mancare qualcosa, però la prestazione è stata buona anche oggi, e insomma i ragazzi hanno dato tutto e comunque un buon punto. Si aspettava di più da Suazo quando l'ha preso? No, ma Suazo è un ragazzo molto positivo, è chiaro che deve convivere anche lui con tanto tempo in un gioco e con qualche problema, però con qualche problema fisico, però è un ragazzo che dà sempre il massimo. Fabio? Mario? Di centravanti, cioè, a me, lei sa che mi curiosisce, sono andato a contarli, ho contato fino a 8 centravanti che hanno giocato nel Genoa, però non ho capito qual è il suo centravanti, cioè per esempio è andato via Crespo che è un centravanti stabile ed è arrivato Suaso che è un contropiedista, Acquafresca è un Gilardino, cioè, qual è il centravanti che vorrà per questo Genoa? No, ma... Per fortuna nel Genoa, dico come caratteristiche, non come nome. Beh, sarebbe facile dire tecnico, fisico, veloce. Invece l'avevo l'anno scorso, mister. Sì, è vero. È vero. Però no, non è importante, non credo che sia un ruolo così, insomma, che possa far interpretarlo solamente un giocatore con certe caratteristiche. L'importante è che sia efficace, che sia ci gioca Miccoli, ci gioca Toni, lo fanno con caratteristiche diverse, con qualità importanti comunque. Questo è Gasperini, insomma, non mi sembra sia il caso di dilungarsi su questa partita. Ci fermiamo un attimo per il traffico, poi torniamo. 800 24 00 24, numero verde, messaggi 349 238 6666. Finalmente abbiamo ritrovato Cassano, se continua così fino al termine della stagione si riaprirà il tormentone insieme a quello pro Miccoli. Speriamo di no, caro ascoltatore, non vorrei riaprire il tormentone Cassano, anche perché non mi sembra siano i tempi, e poi mi sembra un tormentone già finito in tutta onestà. Le scelte sono già state fatte, e forse la depressione di Cassano, causata in parte, come diceva ragione Marotta, causata dall'esclusione ormai decisa dalla nazionale, ebbene, finita anche questa depressione, ben per la Sampdoria. Traffico. Strade in diretta. Traffico molto intenso sulla rete a causa dei primi rientri del weekend, specialmente provenendo dalle località di Villeggiatura. In Liguria ci sono forti rallentamenti lungo la 10 Genova Ventimiglia in direzione Genova, tra Savona e Genova. Molti veicoli in viaggio sulla 4 Brescia-Padova, con code in uscita agli svincoli di Desenzano e Sirmione in entrambi i sensi di marcia. Automobilisti incolonnati anche in uscita da Milano sulla Milano-Brescia alla barriera di Milano Est. Sulla 14 Adriatica ci sono code dovute ad un incidente tra la diramazione per Ravenna e Castel San Pietro verso Bologna. Per un altro incidente il traffico è bloccato in Sicilia sulla statale 115 occidentale Sicula, all'altezza di Ragusa in entrambe le direzioni. Traffico poi rallentato per lavori sulla 14 Adriatica tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Bari. Non ci sono altri aggiornamenti e in chiusura vi ricordiamo il nostro numero verde che è l'800 083622. Torniamo tra mezz'ora. A tempo di sport. Ecco voi Alberto Zaccheroni con Sky. Continuità di risultato su questa vittoria, che è una vittoria che ci doveva essere assolutamente. Dobbiamo metterci, adesso che avremo, come dicevo prima, la settimana come gli altri a disposizione per allenarci, cerchiamo di mettere un po' di carburante, perché altrimenti è difficile. Nel calcio italiano, con i ritmi che hanno tutte queste squadre, poter reggere fino alla fine, anche se sulla carta, sul piano tecnico, hai qualcosa in più sicuramente. Lei oggi mi sembra di poter dire che non ha avuto paura della reazione negativa che potevano avere i giocatori più contestati dalla tifoseria. Ha fatto giocare 90 minuti Zebinà, Cannavaro è stato forse tra i migliori in campo, è arrivato questo gol di Felipe Melo. Quanto può cambiare l'atteggiamento di questo giocatore, forse non soltanto il suo, un gol come questo, e quanto è stato aiutato, visto anche da in campo, da giocatori come Del Piero, come Trezeguet, che oggi hanno un po' trascinato la squadra? Ma, a me non piace parlare molto dei singoli, io preferisco sempre concentrarmi sul collettivo e su quello che deve fare la squadra, perché poi dopo le partite fino adesso non le abbiamo mai perse per la causa di un giocatore. Per me è importante in un momento di difficoltà come questo, con una classifica che non è assolutamente gratificante, cercare di recuperare il maggior numero di giocatori e metterli nelle condizioni migliori per contribuire, perché fino adesso, ripeto per l'ennesima volta, il problema non sono gli indisponibili, ma la condizione dei disponibili, che non è una condizione sufficiente per essere competitivi. Fabio, ti lascio la linea. Così Alberto Zaccheroni, dunque, parole di circostanza, una Juve che certamente non è guarita con questo 2-1 sull'Atalanta. A proposito, diamo un'occhiata alla classifica, cosa che non abbiamo ancora fatto. Che là davanti recita Inter 63, Roma 62. Vale la pena sottolineare come, insomma, ovviamente oggi è la giornata della festa a Roma, dei sogni, di tutto quello che volete, però il sorpasso non è ancora naturalmente stato compiuto. Dunque, credo che molto sia stato fatto, ma molto sia ancora da fare se la Roma vuol vincere lo scudetto e se l'Inter si mette in testa di perderlo. Quindi Inter 63, Roma 62, Milan 59, vediamo che stasera Milan-Lazio 20:45 posticipo, Palermo 51, saldamente al quarto posto, anche se Juventus, Napoli e Sampdoria sono lì dietro in attesa, 48 punti per tutte e tre. Fiorentina, Genoa 44, Bari 43, Parma 42, Cagliari 40, Chievo 38, Catania, Bologna 35 punti, Lazio, Udinese 32 e ormai sono staccate Atalanta 28, Siena 26, Livorno 25 punti. Volevo farvi sentire anche cosa ha detto a bordo campo Alessandro Del Piero. Cambia ben poco, se no che abbiamo fatto 3 punti, siamo tornati a vincere in un momento ultra difficile, molto difficile per noi, per tantissimi motivi, però insomma senza brillare abbiamo vinto, questo ci deve dare un po' di consapevolezza in più, di essere ordinati e concentrati prima di tutto e poi recuperare man mano energie, gioco eccetera eccetera eccetera. È cambiato ben poco per quello che è il nostro obiettivo finale che ci siamo imposti, però ci arriviamo passo dopo passo, quindi quello di oggi è un primo passo, lo consideriamo, lo accettiamo ultra stravolentieri, visto il momento. e poi pensiamo a sabato prossimo, ecco. Questo era Alessandro Del Piero. Massimo Callegari, buongiorno. Ciao, buona domenica. Certo non è guarita la Juventus con questo 2-1 molto sofferto sull'Atalanta, è anche un po' fortunoso onestamente. No, certo che no, però insomma i risultati in questo momento sono determinanti, nel senso che la Juventus se può ripartire da qualcosa deve farlo da questo, e lo diciamo dall'inizio della stagione, e non sono bastati, no? Perché lui ha vinto le prime 4 partite del campionato e non bastò quello per farne una squadra da scudetto, però vincere una partita così dal punto di vista psicologico, evitando che fosse l'ennesima partita in cui la Juve andava in vantaggio inizialmente, poi subiva un tracollo, una rimonta, può essere un punto di partenza. Si sono comunque viste situazioni anche oggi preoccupanti sul piano della condizione psicofisica, soprattutto fisica, perché se Pinea ha fatto un recupero all'inizio del secondo tempo nella sua area e poi è rimasto a terra un minuto, sembrava che fosse alla morto. Fine dell'ultima giornata di campionato. Non a caso Zaccheroni ha detto questa settimana proviamo ad allenarci a mettere un po' di benzina, visto che non ne abbiamo, ma mi sembra palese, no? Anche l'altra sera a Napoli, a Juventus ha retto un tempo, poi è stata letteralmente asfaltata prima di tutto sul piano fisico dal Napoli. Massimo, veniamo alla partita di ieri. Sì. Cosa ti ha detto la partita di ieri? Io non ho più di tanto cambiato le mie convinzioni, nel senso che continuo ad essere convinto che l'Inter, che già si è trovata nel recente passato in situazioni di questo tipo, con la Roma, con i denti della Roma sul collo, e poi ne è uscita, credo che vincerà anche questo scudetto, perché così, secondo me, dice ancora la logica. La Roma è fantastica, perché l'evoluzione della specie rispetto alla squadra di Spalletti, magari una squadra un po' meno creativa, anche un po' meno bella se vogliamo, però una squadra che ha quello che alla creatura di Spalletti mancava, cioè un centravanti vero, una buona dose di cinismo, anche la capacità, come ieri mi è sembrato volesse fare dopo l'1-1, di sapersi accontentare. Poi è arrivata questa vittoria. Però, per colmo di paradosso, l'Inter che fa 11 punti in 10 partite e viaggia come una squadra retrocedenda o quasi, non mi sembra in crisi. Allora, se la Roma avesse giocato o abbia anche pensato, questo non lo sappiamo, di giocare per il pareggio, sarebbe stato un errore clamoroso, nel senso che poi se le due squadre fossero arrivate a pari punti, eventualmente comunque l'Inter ha un vantaggio di 11 gol nella differenza reti, quindi la Roma avrebbe dovuto fare in queste 7 giornate che mancano 5 punti più dell'Inter, no? Sì. Sarebbe stato un errore, al di là della gestione poi della partita in sé. Ieri la Roma ha dato una dimostrazione di un ordine migliore rispetto all'Inter, che è stata schizofrenica spesso in maniera incomprensibile, però al di là della conclusione di Vucinic, che è stata arrivata da Samuele nel primo tempo, tutte le occasioni sono arrivate su palla ferma, e il secondo gol è una situazione fortuita in cui Toni fa davvero la differenza, mentre l'Inter ha creato di più, e al di là della traversa di Samuel e del gol in fuorigioco, però tutte le sue occasioni sono arrivate su azioni costruite, quindi il risultato ci dice molto ma non tutto, certo, però è anche vero, Carlo, che l'Inter, tutti diciamo da tempo, è favorita, però continua a perdere prima delle gare di Champions, l'anno scorso non le succedeva, e continua a non gestire i momenti, o il pareggio o il vantaggio. L'anno scorso l'Inter, quando andava in vantaggio, solo una volta in tutto il campionato contro il Palermo non ha vinto la partita, quest'anno non succede più, e il motivo ci deve essere. Ma 10 punti in meno rispetto all'anno scorso, comunque, Massimo, quindi certamente dei motivi ci sono, però non come tu sottolinei, insomma, ieri ha costruito molto. In un altro momento in cui le stelle magari erano posizionate in maniera diversa, il primo tempo sarebbe finito immeritatamente sull'1-1, no? Perché quel colpo di testa di Samuel, due dita più in basso, si insacca, gol meraviglioso, e la Roma immeritatamente va nello spogliatoio in situazione di parità, quando ha chiaramente dominato il primo tempo. Nel secondo tempo io ho visto una grande partita, soprattutto una grande Inter, ha trovato pareggio, gol in fuorigioco, siamo sempre lì, però nella lettura complessiva della gara, senza stare a parcellizzarla in mille episodi, ho visto una grande Inter, ho visto una Roma che ha trovato questo gol fortunoso, c'è quel palo di Minito, è chiaro che all'Inter gira storta in questo momento, però ti ripeto, non ho visto una squadra in crisi. A maggior ragione non in crisi dal punto di vista fisico, perché si era visto anche a Palermo, no? Dopo la partita col Chelsea, che era stata di un'intensità anche fisica incredibile, l'Inter con gli stessi uomini nel secondo tempo era cresciuta. Però siccome Mourinho tante volte dice quello che conta di più nel calcio secondo me è la testa, evidentemente la testa in alcuni momenti, soprattutto iniziali, che l'anno scorso erano quelli in cui l'Inter ammazzava le partite, non è più quella dell'anno scorso, c'è meno intensità, meno continuità, probabilmente perché dal punto di vista mentale la Champions toglie energie, l'Inter se ne è tolta un po' da sé con tutto quello che è successo nell'ultimo mese, compresa la vicenda Balotelli, che sicuramente non aiuta. Non aiuta come gestione del momento, non aiuta neanche, cioè è un elemento di fastidio indubbiamente per il gruppo. E poi in campo, se hai Balotelli magari entra Balotelli, se non hai Balotelli magari entra Quaresma, mi sembra che la storia sia un pelo diversa, ecco. Io credo che comunque l'Inter stia pagando comunque il conto a suo modo di vivere un po' isterico, un po' schizofrenico, stia pagando il conto appunto a questo caso Balotelli in campo e fuori come elemento di disturbo per la squadra, e stia pagando anche un po' il conto al mutismo di Mourinho, perché sono convinto del fatto che l'Inter abbia bisogno della creatività di Balotelli in campo e abbia bisogno anche della creatività del suo allenatore davanti ai microfoni. Questo silenzio molto lungo credo abbia... Ho come la sensazione che abbia nuociuto all'Inter. Non so come dire, sono una sensazione, però insomma Mourinho è il leader di questo gruppo indiscutibilmente, con tutti i pregi e i vantaggi, aspetti positivi e negativi di questa situazione un po' strana che si è venuta a creare. Stanno parlando, vedo su Sky, da una parte Corvino, dall'altra Del Neri. Cosa stanno dicendo? Che uno va a allenare la Fiorentina e l'altro lo prende? Ho lavorato con tante squadre, per gli amici che ho nel mondo del calcio. Però ha lavorato adesso, con tante squadre? Sì, ma ho lavorato con tanti amici anche con cui non ho mai lavorato. E quindi direi che è importante mantenere il rapporto giusto nel mondo del calcio e valutare quello che si fa per la propria squadra in questo momento. Quindi io penso che noi abbiamo altri problemi di pensare al mercato, che non c'è in effetti. Ecco, ma per questa bella lotta per il quarto questo posto. Questo Ranieri, sentiamo cosa. Scusate, Del Neri, sentiamo cosa dicono sul quarto posto. Che ha una storia diversa. Ma per voi tre, l'arrivo in Champions League vorrebbe dire cambiare completamente i progetti? Sarebbe una situazione importante, ma non solo per me, anche per la società della Sampdoria, per il pubblico. Direi che noi faremo di tutto. È difficile, chiaramente, perché non è semplice, però essere lì a lottare a questo punto del campionato con le grandi di questo campionato mi sembra una cosa fantastica da parte nostra. Torno a ripetere, faremo di tutto. I programmi penso che potrà cambiare la società in base a dove arriverà a fine anno, non certamente l'allenatore o i giocatori. Perché poi vediamo se Del Neri resta lì, io vado da un'altra parte. Massimo, secondo te Prandelli rimane alla Fiorentina o va via? Non lo so, ma se rimanesse, vista la situazione, saprebbe tanto di forzatura. Si è arrivati a una situazione in cui è difficile che ci sia una via d'uscita lineare, nel senso che la cittadella viola, no? Sembra un'entità che sinceramente si fa fatica a comprendere dal punto di vista concreto quando verrà creata e a cosa porterà dal punto di vista economico, perché comunque serviranno degli investimenti, ci saranno dei ricavi, ma quando? Cioè, deve ancora iniziare a essere costruita, quando arriverà questo? Prandelli dice io voglio vincere e ha ragione, lo ha detto anche 4 anni fa, la situazione negli anni non è cambiata perché comunque tutti gli investimenti della società sono stati fatti su giocatori giovani da creare, da costruire, da valorizzare anche dal punto di vista economico, ma non poi per vincere in tempi brevi, per sì. Cui lui le sue esigenze le ha, non è corretto che sia lui a dover dire non voglio andare alla Juve in senso assoluto, sarebbe giusto che anche la società si prendesse qualche responsabilità in più, perché lui ha sempre accettato, e forse qui è stato il suo errore, ha sempre accettato qualsiasi situazione, sì. Non ultima l'arrivo di Carrison, che per come lo utilizza, cioè non lo utilizza, non sembra evidente. Che sia un giocatore gradito particolarmente no, al tecnico. Mi sembra evidente la sua posizione su questo, su questo giocatore. Prima di salutarti vorrei rispondere insieme al primo ascoltatore di oggi, ricordo 800240024, vostro numero verde, Carmine, provincia di Foggia, buongiorno. Buongiorno. Dica. Volevo dire soltanto una cosa, che per quanto riguarda la partita di ieri, l'Inter non è stata per niente in difficoltà rispetto alla Roma, anche perché ha mostrato carattere e comunque un po' di flessibilità, perché forse pensando anche a mercoledì con l'incontro di col CSKA, La Roma è stata sicuramente più fortunata rispetto all'Inter, anche perché ha sfruttato le uniche occasioni, a mio avviso, più plateali. Sì. Quindi è stata un po' spregona e sfortunata, però dico che tecnicamente l'Inter è superiore. Sì. Secondo me vince lo scudetto tranquillamente. Ma tranquillamente non lo so, a questo punto tranquillamente non lo so, anche perché vediamo cosa succede in Champions League, vediamo... Milito realizza quei pali. Sì, ma l'abbiamo detto, no, Carmine, l'Inter all'Inter gira male in questo momento. Onestamente, ieri non meritava di uscire sconfitta dal campo. Detto questo, il primo tempo della Roma è stato qualcosa di assoluto. Non credo onestamente che sulla partita di ieri sera abbia pesato in alcuna maniera l'impegno, neanche nella testa dei giocatori. Quando c'è una partita di questo tipo, non stai a pensare che 3 giorni dopo giochi contro il CSKA in Champions League, no Massimo? Vabbè, magari a livello inconscio, questo noi non lo possiamo sapere, che purtroppo non abbiamo mai giocato nei seriali in Champions League, però... Tanto meno quelle partite. Esatto, a livello inconscio forse qualcosa, sì, quello che va valutato anche rispetto alle due squadre in questo momento è che la Roma ha vinto delle ultime partite, ha giocato bene a Bologna in maniera molto tranquilla. L'Udinese abbiamo visto anche oggi, insomma, in trasferta concede troppo a tutti, è un parametro. Ha pareggiato male a Livorno, ha pareggiato male col Milan, ieri ha giocato una partita di grande qualità. Sicuramente Totti sarà decisivo per come sarà disponibile ad accettare un ruolo come quello di ieri, perché se lui entra come ha fatto ieri, quasi da fermo, ma con quella intelligenza, con quei tocchi sublimi, è un giocatore che può fare la differenza. E l'Inter in questo momento è vero che parte da una base di grandissimo organico, ma in questo momento ha perso tanti giocatori, un ultimo Santon che si deve rioperare, lo stesso Balotelli, e quindi è una squadra un po' meno fresca, quindi un po' meno giovane anche e meno brillante, e senza tutte queste alternative a disposizione, soprattutto in attacco. Quindi la situazione è equilibrata. Certo, la gara di ieri si dice che l'Inter ha perso, ma non in maniera così preoccupante dal punto di vista dell'evoluzione complessiva della partita. Certo. Massimo, grazie, buon lavoro. Grazie anche a voi, buonasera. Alla prossima, naturalmente la prossima domenica non ci sarà campionato perché si gioca il sabato, prossima domenica è Pasqua, ma noi saremo qui ad aprire le uova con voi in diretta dalle 17 alle 18. Appuntamento è fissato anche perché tra l'altro domenica prossima c'è un gran premio a Singapore, c'è il grande ciclismo, proprio il gran premio. Poi ne parliamo, parliamo anche della bizzarra mattinata australiana con la vittoria di Button, con Massa che sale sul podio, terzo posto, quarto Alonso, con una gara finalmente divertente. Sembra sia diventato un assillo quello del divertimento in Formula 1 dopo che per anni tranquillamente abbiamo pisolato davanti alla televisione. Adesso ci vuole lo spettacolo per forza. Questa mattina c'è stato per il solito motivo, cioè pioveva, semplicemente. A tra poco. Sai, ho conosciuto un tipo straordinario. È venuto a prendermi in ufficio, mi ha preso in braccio con cura e mi ha portata da lui. Poi mi ha gentilmente avvolta in una morbida gomma a piuma, messa al sicuro e sigillata. In un attimo mi ha spedito a quel paese. Viaggio comodissimo. Sono arrivata puntuale in perfetta forma. Lui sì che ci sa fare. Non mi sono mai sentita così importante. Mailboxes Etcetera si prende cura dall'inizio alla fine delle cose che vuoi imballare e spedire. 550 negozi Mailboxes Etcetera sono vicino a te. Scegli il tuo su mba.it. Allarga i tuoi orizzonti con la nuova Citroen C3, il Visio Drive, l'unica con parabrezza Zenith che amplifica il campo visivo di 80 gradi, regalandoti una sensazione di guida senza precedenti e un'incredibile luminosità. Fino al 31 marzo, nuova Citroen C3, diesel e GPL allo stesso prezzo. E con il finanziamento Citroen hai anche 5 anni di garanzia. Scoprila in tutte le concessionarie Citroen, anche domenica 21. L'Italia piace ai turisti di tutto il mondo e si vede. Ma come si vede in rete chi propone l'Italia al mondo? Facile, da un sito.it, che è un vero passaporto italiano nell'internazionalità della rete e attira chi sceglie il nostro paese per i suoi viaggi. Se lavori nel turismo, fai vedere al mondo che sei italiano. Registra un sito.it, anche in tempo reale. Informati su www.registro.it, un servizio dell'Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Q8 cerca nuove star. Parti con i velisti per caso. Scopri come su cercasistarq8.it. Vi presenta Tempo in diretta. Previsioni a cura del Centro Epson Meteo. Buona serata agli ascoltatori di Radio 24. Una nuova perturbazione riporterà le nuvole al centro-nord con delle piogge domani intermittenti sulla fascia alpina e prealpina. Qualche isolato fenomeno sarà possibile anche nelle vicine aree di pianura del nord e in Liguria. Al sud e sulle isole condizioni più stabili con prevalenza di sole. Temperature in leggero calo a nord-ovest e stazionarie o lieve crescita altrove. Valori pomeridiani dai 15 ai 20 gradi nella maggior parte del territorio. Per il meteo è tutto, ulteriori dettagli su meteo.it. Marco si sta chiedendo come investire i suoi risparmi. La sua vecchia banca direbbe: ecco il prodotto giusto per lei, anche per sua moglie, i suoi suoceri, i vicini di casa, suo fratello. Quanti anni ha detto che ha sua nonna? In BNL, invece, dipende dai suoi obiettivi e le sue esigenze. L'investimento migliore è quello giusto per te. Progetta il tuo futuro consapevolmente con un consulente personale BNL e la competenza unica dei 5.000 specialisti in tutto il mondo del gruppo BNP Paribas. Chiama l'800 900 900 per un appuntamento in BNL. Grazie, ma adesso sentite, questa è fortissima. Allora, ci sono un meccanico, un falegname e un pasticcere. E anche un fioraio, un idraulico e un operaio. Ah già, è un elettricista, un imbianchino, un... Lavoratori di tutto il mondo, sorridete! Oggi sui veicoli commerciali Peugeot ci sono gli eco-incentivi. Ad esempio, Bipper è tuo da 6.500 euro. Ma non solo, su tutta la gamma, leasing a 2,49%. E 5 anni di garanzia e manutenzione con gli eco-service Peugeot. L'offerta è valida con qualsiasi usato da rottamare. Scade il 34-2010. Corri in Peugeot. Palleggio frenetico, passaggio corto, palla che schizza a destra, a sinistra, in alto, no, in basso, fallaccio. La palla vola, finta di corpo, all'ala, al petto, magico recupero a centrocampo. L'ha recuperata, ma dove va? Dove va? Credit Reforma, con più di un secolo di esperienza, recupera i tuoi crediti nel mondo con efficacia, velocità e talento. Chiama il numero verde 800 425 325 oppure collegati a creditreforma.it. Quando Credit Reforma entra in azione, non perde mai la palla. Tempo di sport. Prima di tornare agli ascoltatori, 800 24 00 24, numero verde, vi ricordo. Mazzari con Sky. Esatto, alle 10:30 stamattina non è venuto nessuno a dirmi che non se la sentiva e mi hanno ripagato. Sono stati seri, bravi, e ecco perché ho detto una prova di maturità. Oggi non era facile, sono stati ancora più bravi che contro la Juventus, secondo me. Studio, Mario Sconcerti. Cioè, una cosa, Mazzari. Si sta parlando di molti stopper, si dice che andremo con una difesa abbastanza fragile ai mondiali in Sudafrica, ma Paolo Cannavaro non è mai stato considerato a livello di nazionale, mentre sinceramente quest'anno in particolare sta facendo veramente un grande campionato. Cioè, se la sente di sponsorizzarlo e di raccontarci un attimo perché di questa crescita, quanto c'è anche di suo? No. Ma la crescita è evidente. Ah, io credo. Allora, sono d'accordissimo con lei. Sta facendo un campionato sopra le righe, da tutti i punti di vista, sia in fase difensiva che di impostazione, personalità. Quando sono arrivato io c'era un momento, stava passando un brutto momento perché subiva un pochino il momento generale qui a Napoli, c'era un po' di scoramento, lui era napoletano, aveva avuto un gesto di reazione. E non aveva, invece di andare avanti andava indietro, cioè era troppo prudente. Io credo di avergli dato sicurezza anche con l'organizzazione di tutto il reparto e credo di aver visto veramente un miglioramento incredibile. Ora sta giocando da tante partite veramente, come dice lei, molto bene, è completo, sta, oltretutto è bravo di testa, di piede. Ora che è più sicuro dei propri mezzi, in questo momento non vedo tanti difensori superiori a lui, dico la verità. Grazie. Anche perché siamo un po' in difficoltà sull'argomento difensore, no? Sul capitolo difensore. A me francamente pensare adesso, oggi, alla spedizione mondiale dell'Italia vengono i brividi, eh? Cannavaro, Fabio, Grosso, l'unico che offre garanzie è Chiellini, che però insomma ne ha avuti tanti di infortuni in questa stagione e quindi è giocatore. Insomma, se devi costruire la difesa intorno a Chiellini, insomma, non stiamo benissimo. Poi su Paolo Cannavaro non lo so, io sono dell'idea che insomma ci vuole, non sia sufficiente un pugno di partite messe in fila per cominciare a parlare di nazionale, perché sennò possiamo sponsorizzare un sacco di giocatori senza particolari ragioni. Prontamente inquadrato uno striscione dei tifosi napoletani comunque sull'argomento: Lippi, ci sono gli incentivi, rottama Fabio, prendi Paolo. Questo striscione napoletano. Stefano Roma, buongiorno. Buonasera, senta, volevo dire di questa vittoria della Roma è importante, grazie. Ah, grazie a lei, vittoria della Roma importante, grazie. Prego, Roberto, Roma, speriamo che l'intervento sia un po' più articolato. Pronto? Sì, dica. Buonasera, non mi aggancio al discorso di Paolo Cannavaro che forse merita la nazionale, ma se c'è un giocatore in assoluto che ieri mi ha impressionato che meriterebbe la nazionale è Fabrizio Miccoli. Io non capisco come è possibile che non venga preso in considerazione un giocatore che sta facendo un campionato eccezionale, fa reparto a sé, è straordinario, non viene preso in considerazione da Lippi. Volevo il suo parere su questo, grazie. Ma il mio parere è che le squadre si costruiscono con il tempo e con giocatori che possono essere funzionali a un impianto. Ripeto lo stesso discorso, Miccoli straordinario nel Palermo, non è detto che Miccoli in una squadra differente, che ha una faccia diversa, che ha esigenze diverse, possa giocare alla stessa maniera. Cioè non è sufficiente prendere Miccoli, metterlo da quell'altra parte e avere la garanzia che Miccoli potrebbe essere così decisivo. Detto questo, sono tanti i giocatori di cui si potrebbe parlare, soprattutto in attacco. Io continuo a pensare che al di là di tutto, al netto di tutto il polverone di questo periodo, un giocatore che ai mondiali porterei subito è proprio quello che adesso nell'Inter sta fuori perché è in castigo con Mourinho. Perché come caratteristiche è invece un giocatore che entra 10, 15, 20 minuti, un tempo e ti spacca in due la partita. Per caratteristiche, Miccoli non è così, secondo me. Bettega con Sky. Hanno dato un contributo a risolvere questa partita. È arrivato il gol di Felipe Melo, uno dei giocatori più contestati, è stato in campo per 90 minuti Zebinà. Le chiedo come ha vissuto questa partita in questo clima, quello che è accaduto oggi in ritiro, e secondo lei come l'hanno vissuto i giocatori? Ma allora, i giocatori almeno in questo caso hanno dato un segnale di professionalità perché hanno disputato nei loro limiti, bene, male, benissimo, la loro partita senza farti influenzare da quello che appunto è successo fuori dal campo, perché è giusto, non stiamo andando bene, è giusto criticare, è giusto fischiare, è giusto tutto, qualche eccesso soprattutto appunto fuori mi pare un po' esagerato. Certo, si riferisca, scusi, a quello di Zebinà, perché l'abbiamo visto insomma. Ma in senso più generale, perché Zebi sicuramente c'è entrato, o almeno uno degli obiettivi, però sinceramente salendo sul pullman mi sono chiesto se giochevamo in casa o se giochevamo fuori, nel senso che l'atteggiamento non era sicuramente positivo da parte dei tifosi, che torno a dire, io so benissimo che cosa è la Juve, che cosa la Juve deve fare, dovrebbe fare, che cosa spera di fare, che cosa vuole fare. Questo è un momento in cui non ci riusciamo, però credo che mantenere nei limiti giusti della critica, della contestazione, penso che sia doveroso. E chiedo se ha letto qui parole. Passano invece le immagini in cui Zebina si prende uno schiaffone sulla nuca da tifoso, non saprei, da un esagitato. Graziano Isernia, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo fare una domanda sull'Inter. Prego. Io ho la sensazione che da tifoso interista che questo scudetto l'Inter non lo vinca, proprio perché vedo un certo nervosismo nella squadra. Sì. Dimostra anche la munizione di ieri sera, nonostante per lunghi tratti ha dominato la partita, ha avuto un possesso palla non indifferente. Quindi questa è la mia sensazione sul livello della squadra, sulla squadra in questo momento. Sì, no, è uno dei problemi. 11 punti in 9 partite sono veramente una miseria. Non c'è dubbio, come detto prima, l'Inter viaggia in questo momento, nelle ultime 10 gare, una media da squadra retrocedenda. Però detto questo, lei ha ragione, il nervosismo è uno dei segnali più preoccupanti. Forse il più preoccupante in senso assoluto per quest'Inter, che invece sul piano del gioco non mi sembra stia dando particolari segni di cedimento, né dal punto di vista del gioco né dal punto di vista fisico. È chiaro che, come detto prima, l'Inter sta pagando il conto al suo modo di vivere un po' isterico alla situazione che si è creata con Balotelli, al mutismo di Mourinho, ai tanti problemi che un po' si è andata a cercare. Quindi è un Inter molto nervosa, come testimonia anche la partita di ieri, come testimonia tanti cartellini che tra l'altro creeranno problemi di formazione a Mourinho sabato prossimo contro il Bologna. Però di qui a dire che l'Inter non vincerà questo scudetto con certezza, no, io continuo a pensare invece il contrario, continuo a pensare che l'Inter possa, abbia le forze per gestire questo, anche l'intelligenza sufficiente per gestire questo momento un po' complicato. Ci fermiamo per il traffico, poi torniamo. Q8 cerca nuove star. Parti con i velisti per caso. Scopri come su cercasistarq8.it. Vi presenta Strade in diretta. Sono in corso i rientri del fine settimana e il traffico è molto intenso sulla rete provenendo dalle località di Villeggiatura. In Liguria ci sono forti rallentamenti in direzione Genova lungo la 10 Genova Ventimiglia tra Savona e Genova. Molti veicoli in viaggio anche in prossimità del confine svizzero sulla A9 Lainate Chiasso e sulle percorrenze locali in prossimità delle località lacustri e montane. Ci spostiamo sulla A14 Adriatica dove si formano code per un incidente tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna. Un chilometro di coda per lavori sulla A15 della Cisa tra Pontremoli e Berceto verso Parma. In città a Roma ricordiamo che a causa di provvedimenti antismog fino alle 20:30 è attivo il divieto di circolazione per i veicoli più inquinanti all'interno della fascia verde cittadina. A chi viaggia in aereo invece fino a domani sono a rischio i voli British Airways a causa di uno sciopero del personale di cabina. Non ci sono altri aggiornamenti per il momento, viaggiate con prudenza. Strade in diretta torna tra mezz'ora. Promo 24. Chi viaggia per lavoro deve pensare anche a sé, per questo è giusto pretendere un'auto sicura e affidabile. Passat EcoFuel e Blue Motion Technology garantiscono innovazione e comfort nel massimo rispetto dell'ambiente, con ridotti costi d'esercizio e minimi consumi. Passat 1600 TDI Blue Motion Technology è il nuovo diesel di terza generazione che con i suoi 105 cavalli permette di percorrere più di 1000 km con un pieno. E Passat 1400 TSI EcoFuel è l'unica con motore turbo a iniezione diretta bivalente benzina-metano da 150 cavalli. Grazie ai Blue for You Days fino a 3.000 euro di vantaggi e finanziamento a tasso agevolato in 6 anni. Offerta valida fino al 31 marzo. Informazioni e dettagli su www.volkswagen.it. A tempo di sport. 800 24 00 24, numero verde, messaggi 349 238 6666. È per me un piacere fare gli onori di casa Carlo Mazzone. Buonasera, sì, mister. Buonasera signori, buonasera. Grazie davvero di essere qui con noi a spiegarci quanti meriti ha secondo lei Ranieri in questa fantastica primavera romana. Come quando qualche mese fa quanti erano i demeriti di Claudio Ranieri. Il mondo di noi allenatori è stranissimo. Un allenatore magari per anni e anni fa sempre bene, una volta che magari non riesce a far bene subito giudizi duri anche su Roma, che sì, io ogni tanto mi collego con radio private o televisioni private, insomma, sempre, ci sono stati momenti di grande dei giudizi che non condividevo. E questo fatto la dice lunga qual è il mio giudizio, il mio pensiero. Questo è veramente un allenatore bravo. Questo ha fatto la sua gavetta da giovane, ha girato l'Europa. La Juventus l'anno scorso non si è comportata da gran signora come è sempre stata, no, mi sembra, o no? No. Anzi, proprio no, ma infatti si mordono le mani ancora adesso. Si è comportata da puntini, da gran puntini, ecco, perché vanno anche dette queste cose, no? Ecco, anche però per dare un rispetto a questa immagine dell'allenatore che sta sempre di più scemando. Sì, ma poi vede, per fortuna la giostra gira e adesso chi ride non è la signora o come la chiama le puntini puntini, è Claudio Ranieri che si, insomma... No, ma vabbè, però fanno male quelle cose, non c'è dubbio. Io faccio delle battute, voi sapete, no? Dice, ma se allenatori guadagnano un sacco di soldi, vabbè, allora ammazziamoli. No, ma anche pure questo, cioè, guardi, non voglio fare la vittima perché non l'ho mai fatta, però ecco, un certo rispetto nei momenti difficili che abbiamo tutti noi nella nostra, certo, carriera, certo, no, come, come voi nella vostra. Sulla demagogia del quattrino, guardi, sfondo una porta aperta, quando mi dicono, quando mi dicono, con tutto quello che guadagnano i calciatori, vabbè, guadagnano, non la buttiamo sempre in moneta, perché sennò diventano discorsi un po' troppo facili. Vabbè, mo, a parte questo, questo no, beh, giusto, è giusto, polemica, è giusto, da parte mia, perché io sono molto legato a sto ragazzo, perché non so se tu sai, è stato mio giocatore nel Catanzaro, so, è stato benissimo mio capitano, abbiamo avuto dei grandi rapporti, prima di andare alla Roma ci siamo sentiti, insomma, ecco, diciamo che sono, oltre che sono tifoso della Roma, sono anche un tifoso di Claudio Ranieri, perché tutto sommato mi intravedo in lui, no? Noi romani, romanisti, giocatori della Roma, che poi diventiamo allenatori, ma innanzitutto siamo tifosi della Roma, no? Certamente. Cosa ha dato sul campo Ranieri alla Roma? La mia sensazione è che abbia aggiunto qualcosa al lavoro di Spalletti, cioè Spalletti aveva creato un magnifico sogno, una squadra molto creativa, molto bella da vedere, qui però mancava sempre il classico centesimo che fa una lira. Adesso c'è, ecco, questo centesimo, no, e c'è Toni là davanti. Sì, Toni chiaramente ha risolto parecchi problemi, anche se ha giocato pochissimo. A parte questo, io penso che noi sappiamo benissimo che il calcio si può giocare tecnicamente, tatticamente e fisicamente. Io penso che Spalletti puntava molto sul fatto tecnico, e sul fatto fisico, meno tattica. Io penso che Ranieri abbia portato un pizzico di tattica che riguarda specialmente la fase di non possesso, prende forse qualche gol di meno, e tutto questo può aver rilanciato quella Roma. Però posso anche dire che sia Spalletti che sia Ranieri hanno avuto un mare di sfortuna, perché hanno avuto sempre giocatori importanti, in primo luogo Francesco Totti, infortunati. Perché poi noi parliamo, noi allenatori, le società, voi giornalisti, ma i protagonisti di questo gioco sono i calciatori, i giocatori. Assolutamente. Sono loro che fanno nel bene e nel male il risultato. Vede, però questa Roma ha anche il merito di essersi un po' emancipata da Francesco Totti. Adesso tornerà, però può fare soltanto il giocatore, può fare soltanto il campione, no? Non deve più fare il papà, la mamma, la badante, il parafulmine, fare questi mille ruoli, no? Ma non li fa però questi. No, non li fa, tutto questo non li fa. Questo fa sicuramente il campione, fa il tifoso della sua squadra. Queste sono le voci che io sottolineerei di Francesco Totti. È chiaro che lui, se un giocatore così bravo a livello europeo, che avrebbe potuto andare dove voleva, è rimasto nella sua città, è perché è legato a questa sua città, a questa sua squadra. Non c'è dubbio su questo. Ecco. Non c'è dubbio su questo. Senta, sì, le chiedo ancora questo. L'Inter invece, che cos'ha? Secondo me è una situazione strana. È stanca. L'Inter è un po' stanca, è stressata pure, questi giocare in così poco tempo. È vero che c'è un bellissimo organico, numeroso e qualitativo, però penso che stia pagando un pochino un pedaggio sul piano atletico. Ecco, però penso che anche ieri, perché la partita è stata una gran bella partita, ma penso che il risultato più giusto sarebbe stato un risultato di parità. Sì, vero. Questo bisogna, non bisogna essere sempre di parte, non è bello, non è sportivo. Per cui io penso che l'Inter possa ancora essere competitiva per vincere lo scudetto. Io mi auguro di no, perché magari tifo Roma. Voi sapete che io sono sempre molto sincero. No, ma ci mancherebbe altro, e fa benissimo, e lo sanno tutti. Tanto che non mi dica che vuole andare in pensione, non me lo dica, perché non lo voglio sentire. Non glielo dico, perché già ci sono andato. Sì, ma si fa sempre in tempo a tornare dalla pensione. No. A 73 anni. Allora. Io la ringrazio per la sua stima. No, non è questione di stima. È che non è il momento, caro Carlo Mazzone. Ciao. Ma Carità, perché fammi di dare tu, sai. Sì, tu sai che io sono un fratello gemello che da grande faceva l'allenatore. Ogni tanto la mattina salsa lui dice a quell'altro: senti che lì, allora no, vogliamo sta macchina, andiamo da qui e là. No. Sai, quell'altro che gli dice: no, facciate che a me mi ci viene da ridere. Ma non è il momento di Aretta, non è il momento. No, altrimenti sarei già ritornato tra voi. Zeta, chiedo ancora una parola di conforto per Zaccheroni, che povera stella, lo vedo sempre più pallido. Mamma, poro, veramente adesso non, a parte questa sua, veramente sta soffrendo tantissimo, gli sono partito dal modo vicino e gli faccio il tifo e mi auguro che questo gli possa portare bene su. Carlo Mazzone, grazie. A voi. A presto. Buon lavoro e tante cose. A saluto. Grazie, grazie davvero, grandissimo Carlo Mazzone. Ma no, ma non sto scherzando. Non stavo scherzando sulla storia della pensione, non è questione di perché era qui, per piaggeria, l'ho detto mille volte, insomma. È un allenatore, credo, ancora oggi in grado di produrre, di fare risultati, soprattutto per le squadre cui si è dedicato per una vita, cioè quelle che devono tirar fuori tutto quello che hanno per raggiungere la salvezza. A proposito, sta parlando Malesani, che dalla salvezza ormai è un po' lontano, anche se ha fatto uno splendido lavoro a Siena, come ha fatto il Milan, perché ha individualità incredibili. Allora sì, metti a imposto la squadra, imposti la squadra con un sistema di gioco e prosegui così. Grazie a Malesani. C'è... Questo era Alberto Malesani. Ci siamo persi tutto Corvino. È stato un peccato, ma mi sembra l'agenzia non abbia detto un granché sulla questione di Prandelli, che ha disertato il dopo partita. Particolarmente interessante invece sarà tra un istante sentire Jonathan Zebinà nel mirino quanto a cori dei tifosi juventini ormai da tempo. Adesso gli hanno messo anche oggi, mi pare, le mani addosso. Sentiamo cosa dice. Ferri, naturalmente Zebinà, gli facciamo vedere queste immagini che avevamo colto prima dell'inizio della partita. Eccole qua. Sono quelle che vi ho raccontato. Con te che ti avvicini io. Innanzitutto, ma tu hai capito Zebinà chi era quello dietro? Va verso il pullman e c'è un tizio con un giubbotto nero che gli dà uno scappellotto. Lui fa caso e va avanti. Siamo molto bravo lì. Ti dico la verità, in quel momento lì preciso, sì, l'ho capito, vedi, adesso che alla fine c'era uno che mi aveva dato una manata, però non l'ho capito, però guarda, cioè, c'era da concentrarsi veramente sulla nostra partita e oggi si può parlare di cose negative, di difesa che prende troppi gol, che non ne facciamo abbastanza, cioè, che il centrocampo non pressa abbastanza. L'importante è che oggi abbiamo tirato fuori l'orgoglio, che era cosa veramente fondamentale. Poi questi episodi, ripeto, fanno male. Io ho le idee ben chiare su questi gruppi, alla fine, con idee estremistiche, cioè, ma tutti i paesi alla fine hanno gli stessi problemi, non è che solo l'Italia. Cioè, che l'unica idee? Cosa è che oggi bisogna concentrarsi. Che hai delle idee chiare? Beh, cioè, sai. Guarda, io magari, capisco, perché dalle vostre domande magari capisco che non è stato molto chiaro. Alla fine io quel gesto che non avrei dovuto fare, molto brutto, che ho rivolto ai tifosi a Fulham quando sono uscito dal campo, è solo un fatto di problemi di razzismo, niente di più, niente. Scusa Jonathan, devo dirti che noi l'abbiamo sottolineato più volte. Federico soprattutto l'ha detto più volte. Tante volte insulti razzisti, devo dire che l'abbiamo detto più volte. Io sono il primo ad accettare critiche tecniche, a sentirmi dire: ascolta Zebinà, non sei bravo a giocare a calcio, vai a giocare altrove. Non c'è nessun problema, cioè la gente paga il biglietto e ha il diritto di dire quello che vuole. Io devo dare... alla fine, cioè, vedo la fede all'allenatore, mi dà fiducia, io gioco bene, cioè io devo rimanere concentrato per fare il mio lavoro. Però sai, a me io più sono sotto tensione, più sono concentrato e meglio è per me. Dunque certo, questa vita a me non piace, sai, corri, è un periodo non tanto sereno. Però, come tutti gli uomini che hanno lavori magari diversi anche dal nostro, bisogna affrontare queste situazioni con orgoglio. O ti nascondi o le affronti. Io le affronto e vado avanti. Oggi abbiamo dato una bella prova d'orgoglio. Il gioco può essere quello che è, però comunque il principale è che oggi abbiamo vinto, ci siamo messi questi 3 punti in tasca e ci teniamo ancora la possibilità di andare questo, in Champions League. Questo è Jonathan Zebinà. Dunque, avete sentito le sue spiegazioni anche di quel dito medio alzato verso i tifosi juventini a Fulham. vedo che con Sky sta per parlare, anzi per riparlare del Piero che l'avevamo sentito prima, ansimante a bordo campo. Uno a proposito di un ascoltatore aveva scritto: ma come ansima del Piero? Per forza, ha finito di giocare, ci mancherebbe altro. D'altro ha giocato una signora partita Alessandro Del Piero, sentiamolo. Ma io fondamentalmente ho ascoltato quelli che sono i loro punti di vista e la loro delusione, diciamo così, quello che mi sono sentito di dire, ma che ci sentiamo tutti noi di dire, perché siamo consapevoli di questo momento non solo non felicissimo ma molto molto difficile, che l'unica risposta che noi possiamo dare è quella del campo. Non ci sono alternative possibili che ci possono dare chissà che cosa, quindi abbiamo il dovere e la consapevolezza di andare in campo e di dare il massimo, di vincere per cercare di recuperare quello che ci manca inevitabilmente come punto in classifica, come rapporto anche con loro stessi. Diceva poco fa Zebina. Io c'è una cosa che non sopporto, è questo eccessivo protagonismo dei tifosi, questo considerare i tifosi come degli interlocutori. Ma perché? Perché i tifosi devono essere degli interlocutori dei giocatori, del club? Sono semplicemente dei fruitori di uno spettacolo, mi pare, no? Almeno i tifosi, quelli che dovrebbero andare allo stadio a vedere la partita. Non capisco perché debbano diventare interlocutori quasi privilegiati di un club, di un capitano, di un giocatore, finire in campo, andare in campo in un derby a Roma. Ma perché succede questo? Perché? E poi solo qui, ma perché? Vincenzo, Reggio Calabria, buongiorno. Pronto, buonasera dottor Genta, complimenti per la trasmissione. Grazie. Vi ascolto sempre. E volevo innanzitutto, da tifoso juventino quale sono, sì, volevo dire una cosa: viva Mazzone tutta la vita, tutta la vita. Io credo che la sua corsa famosa 3 anni or sono debba essere annoverata negli annali del calcio. Era il suo gemello, era il suo gemello quello là, era sì, quello che lo invita a prendere la macchina e a tornare in panchina, non era lui, sa benissimo, no, questa storia. No, ma sì, dei due fratelli. No, ma la cosa che mi commosse fino veramente quasi alle lacrime fu per far scoppiare in quella maniera un uomo di 70 e passa anni, che cosa dovevano aver fatto per tutta la partita i cosiddetti tifosi. Comunque, ha un decano del calcio, devo dire, e lo dico da tifoso juventino, quindi sì. Vabbè, ma questo non è questione di bandiera, insomma. Sì, no, proprio per dire, va oltre ogni cosa, è sì, come andare a contestare un Vittorio Pozzo o un Enzo Berzotti. Io li metto tra quei personaggi che li vedo come totem sì, assoluti del calcio italiano. Un'altra cosa sulla Juventus, volevo chiedere la sua opinione. A me stupisce più che altro, per quanto riguarda, sto parlando della dirigenza ovviamente, l'impreparazione che stanno dimostrando, ma non tanto sulla rosa che hanno allestito, ma sul rimediare agli errori. Noi sappiamo benissimo che le squadre vincenti si costruiscono con molto anticipo. La Juventus, per esempio, che andò in crisi durante la prima era di Lippi a Torino, quando Lippi si vedeva a metà campionato che era ormai cotto, almeno per quel periodo, sì, Ancelotti era già stato ingaggiato, erano già stati scelti i giocatori che avrebbero rinforzato quella Juventus, sì, cioè era già tutto programmato prima ancora che Lippi si dimettesse, sì, era già stato tutto deciso. Quello che spaventa a me da tifoso juventino è che ancora adesso, quando quella Juve era, certo, già programmata per i prossimi 2 o 3 anni e non sono state ancora fatte Juventus delle scelte precise, cioè Zaccheroni forse resta, forse no, forse un altro, forse vediamo, forse risultati. No, ma lei ha ragione, però insomma mi sembra che la gestione della Juventus sia ben differente, no? C'erano uomini di calcio allora, poi lasciamo stare tutto il resto, c'erano uomini di calcio allora, non ci sono uomini di calcio adesso, e questa è la radice, io credo, dei problemi della Juventus, che ha buttato rispetto anche a quel passato un mucchio di quattrini e non è ancora riuscita a costruire nulla. Questo è un dato di fatto, mi pare. Grazie Vincenzo. 800 24 00 24 è il numero verde. Io saluto e ringrazio Mirko Graziano, inviato della Gazzetta dello Sport. Ciao Mirko, grazie. Ciao. Cos'ha l'Inter? È un'emorragia di punti. Sì. È una squadra che non sta malissimo fisicamente, perché da Palermo in poi soprattutto ha giocato anche buone partite senza però raccogliere il risultato pieno. Una squadra che magari ha perso un pizzico di fortuna, ha perso un pizzico di sicurezza soprattutto dietro, e finisce per prendere dei gol che in precedenza non ha mai preso. E che questo ha permesso a tutti quanti le altre dietro di riavvicinarsi, e questo somma magari sicuramente un po' di tensione pre-post Champions, perché comunque l'Inter si trova a giocare un turno importante, potrebbe tornare in semifinale dopo molti anni, insomma è una coppa che ha sempre fatto parecchio male in passato all'Inter, sì. Quindi possono essere tutte queste componenti. Ascolta, ma secondo te all'Inter manca di più Balotelli in campo o Mourinho al microfono? Una bella domanda questa, ne stavamo parlando proprio oggi, penso che manchino moltissimo tutti e due. Certo, io privilegio sempre il campo e certo, dico che però manca di più Balotelli, però non è sbagliato quello che hai detto. Ma no, anche perché per il ruolo che si è costruito Mourinho, no? Un ruolo assolutamente sui generis per una squadra di calcio in cui il leader non è Zidane, il leader non è Del Piero, esatto, non esatto. È un giocatore, non è Totti, il leader è indiscusso e assoluto, è l'allenatore. La squadra è abituata ad avere un allenatore che fa il suo gioco, no, mediatico, e questo è molto importante, non è una questione marginale nella macchina Inter di quest'anno. Questo improvvisamente diventa muto, e allora il giocatore come reagisce? È una squadra che pende dalle labbra del suo allenatore, e in questo momento quelle labbra sono chiuse, perlomeno a livello esterno, e contava molto proprio in questo senso, nell'alleggerire l'ambiente, nell'attirare su di sé le polemiche, nel trovare diciamo la nota positiva magari anche in una giornata negativa, e queste cose qua mancano, e ce lo stavamo dicendo proprio oggi in redazione. È una squadra che si deve dare una svegliata in tutti i sensi, ma soprattutto a livello di testa, ti ripeto, perché non è una questione fisica, perché l'Inter le ultime partite, anche quelle dove ha perso punti, sì. Le ha giocate meglio nel secondo tempo, sì. E questo vuol dire che la squadra anche ieri contro la Roma ha dominato il primo tempo, e l'Inter ha fatto una ripresa straordinaria, ha fatto un grandissimo secondo tempo. Dopo l'1-1 era chiaro a tutti che l'Inter aveva in mano la partita, certo. Aveva in mano, e anche dopo il gol casuale di Toni, perché lì è un tiro sbagliato di Taddei che finisce tra i piedi di Toni. Ecco, lì aveva ancora in mano la partita. Poi secondo me lì invece il tecnico Mourinho ha fatto un grosso errore, cioè buttando dentro questo Quaresma che non si sa perché deve giocare in ogni situazione, togliendo un centrocampista intelligente come Cambiaso, lì ha finito sì per fare un assalto finale, ma per dare anche tanto campo alla Roma. Certo. Mentre invece secondo me se fosse rimasto con l'atteggiamento tattico del post entrata in campo di Pandev, lì avrebbe ripreso anche la partita. Sono d'accordo con te, anche perché ho avuto come l'impressione che la Roma in quel momento stesse seriamente pensando al pareggio, che poteva non essere un cattivo risultato. Sì, si è spaventato il pubblico, che è stato straordinario ieri, sì. Meraviglioso, ha urlato tutta la partita. In quel momento lì, stati quei 10 minuti, quei minuti diciamo dopo il gol di Milito, che lo stadio aveva capito che stava per capitolare. Quella è la sensazione che si era avuta sugli spalti. Mirko, ti chiedo un attimo di pazienza che ho il traffico già in linea, poi facciamo altre due chiacchiere insieme. Traffico. Strade in diretta. Traffico di rientro verso tutte le grandi città, ci sono anche incidenti e cantieri a causare code più lunghe, hanno raggiunto i 7 chilometri le code sulla 14 Adriatica, code per un incidente verso Bologna tra Faenza e Castel San Pietro. Il traffico è bloccato per un incidente sulla Statale 10, la Padana Inferiore da Piacenza verso Castel San Giovanni, l'incidente è avvenuto a San Nicolo a Trebbia. Sulla 15 della Cisa le code verso Parma tra Pontremoli e Berceto sono per lavori. In Liguria è trafficatissima la 10, la Genova Ventimiglia verso Genova, ci sono code per una ventina di chilometri tra Finale Ligure e Savona e altre code tra Varazze e Genova Voltri. Verso Milano sulla 4 i rallentamenti vanno da Sirmione fino a Brescia Est, e in direzione sud sulla statale 38 dello Stelvio si resta in coda all'altezza di Morbegno. È chiusa per un incidente in Sicilia nel Ragusano la statale 115 sud-occidentale Sicula. Noi torniamo tra mezz'ora. A tempo di sport. Noi, Mirko Graziano, inviato dalla Gazzetta dello Sport, stavamo parlando del mal oscuro, non so se è un mal oscuro, comunque della crisi di rendimento dell'Inter, a cui non corrisponde secondo me però una crisi di prestazioni, perché da questo punto di vista ha ragione Massimo Moratti nel dire l'unica partita che abbiamo giocato in maniera veramente deludente è stata quella con il Genoa, e Moratti lo disse dopo la sconfitta di Catania, ma è condivisibile, sono tutti risultati strani, un po' figli delle stelle che sono contrarie, un po' figli di palle traverse, un po' figli del mutismo di Mourinho, del caso Balotelli, di un nervosismo francamente eccessivo, anche perché, caro Mirko, vivere sempre sui nervi logora, ma anche Oriali che dopo la partita di Palermo non parla Mourinho, va a parlare lui degli arbitri, insomma è tutta una situazione di stress, un po' di isteria che alla fine non può non produrre risultati controproducenti. Quell'uscita di Oriali non è stata ben vista neanche dai piani altissimi della società, insomma, quindi è stata un'uscita probabilmente figlia dell'attenzione che si era respirata in panchina nei minuti immediatamente successivi alla fine della partita, ma l'Inter, diciamo, insomma, che Moratti non aveva gradito molto quell'uscita sugli arbitri a Palermo, però appunto come dici tu sono tutte cose figlie di una squadra che ha giocato spesso sui nervi e lo ha fatto per quasi tutta la gestione di Mourinho, quindi non parliamo solo di questa stagione ma parliamo ormai di un anno e mezzo abbondante e quindi alla fine come dici tu logora e rischia di farti perdere punti per strada che prima con maggiore lucidità non avresti mai perso. Io credo che uno come Mourinho, esattamente come uno come Sacchi, non possa durare più di 2 anni su una panchina di una squadra. Non a caso, al Chelsea è scoppiato al terzo anno. Non a caso, appena iniziato il terzo anno, al Chelsea era scoppiato e mette nei primi 2 anni con la tensione altissima. Aveva una squadra che è una molla di fatto, aveva riportato lo scudetto in un club che non lo vinceva da 50 anni. Però poi dopo si è rotto qualcosa inevitabilmente, e sono d'accordo con te. È un tipo di tecnico che non può stare sulla panchina per più di 2 anni, guarda. No, per più di 2 anni, perché poi o cambi tutti i giocatori e allora ne prendi altri da mettere nella centrifuga o è un po' più semplice. Bravo, stile Sacchi. Ti chiedo ancora questo, che Inter ti aspetti di vedere con il CSKA mercoledì notte? Mi aspetto di vedere un Inter, diciamo, formato Champions ultima maniera, non quella di eliminazione, diciamo quella col Chelsea, una squadra che veramente vive questa coppa come la cosa più importante della stagione e ci sta arrivare concentratissimo. Oltretutto è notizia di oggi che un po' mi ha sorpreso, lo stadio San Siro è già tutto esaurito, restano 200-300 biglietti di primo anello rosso e diciamo che non è sorprendente per un quarto di finale, ma è sorprendente perché l'avversario è il CSKA, insomma è qui a Milano il pubblico un po' di bocca buona, quindi mi aspettavo al massimo 45-50.000 persone, invece anche la gente a questo punto ci crede molto e San Siro pieno è da grandi motivazioni ed è davvero qualcosa in più nel motore. Grazie Mirko, buon lavoro. Grazie a te, ciao. Alla prossima, grazie Mirko Graziano. Io torno a parlare invece con i miei amici ascoltatori, Giovanni da Napoli e poi Luca da Lucca. Giovanni. Buonasera. Buonasera a lei. Senta, due pensieri. Prima di tutto sui tifosi. Sì. Ormai penso che per qualunque società, in qualunque campo, il cliente è qualcosa di più di un fruitore di servizio. Sì. I tifosi, che sono i clienti delle società calcistiche, sono persone che comunque mettono non solo risorse economiche, ma anche tempo, dedicano tempo, il loro tempo, che è sempre più raro. Però guardi, quello del mestiere di tifoso è un mestiere che a me non non ha diritto di esistere, non ha diritto di cittadinanza, a mio parere. Io dico, se io vado a vedere una partita e sono tifoso, vado, compro il mio biglietto, poi non mi sogno nemmeno di andare a parlare con i giocatori e non pretendo nemmeno di avere il diritto di andare a parlare con i giocatori. Mi spiego? Il customer service c'è in qualunque azienda del mondo, quindi diciamo che lì si scavalca qualche step e si arriva direttamente a chi opera. Però la logica è sempre quella, il cliente è una risorsa e il tifoso deve essere una risorsa, deve essere accattivato. Deve essere mantenuto. Penso che sia una logica moderna, assolutamente. Poi vabbè, poi quelle sono esistono le fasi patologiche, ma quello ormai ha ragione su quello. Io dico il tifoso certamente va accontentato giocando bene, certamente va accontentato dandogli magari uno stadio confortevole, rendendogli la vita facile all'accesso allo stadio e non facendogli fare la fila come tanti animali. Va ricercato magari anche tra quelli che a vedere il calcio non ci vanno più, proprio perché ci sono altri tifosi che sono diventati padroni del giocattolo. In questo senso io intendo il trattare bene il tifoso, non nel senso di adularlo, mi viene un'altra espressione ma non la dico, non nel senso di adularlo, né nel senso di accontentarlo, né nel senso di farlo diventare protagonista del gioco, perché non è protagonista del gioco e non deve essere, a mio parere, protagonista del gioco. so se mi spiego. Giovanni, io comunque la ringrazio. Luca, buongiorno. Buongiorno, salve. Senta, io sono in parte d'accordo con lei e in parte no sull'ultima affermazione. Vediamo la, vediamo la parte no che è più interessante. La parte no è relativa al fatto che è vero che il tifoso non deve entrare, fra virgolette, troppo all'interno del gioco, però è anche vero che è il principale attore del gioco, nel senso che se non ci fossero i tifosi, i giocatori non avrebbero motivo di esistere, non avrebbero motivo di guadagnare tutti i soldi che guadagnano. E quindi così come i tifosi, fra virgolette, non si possono permettere di fare magari quello che hanno fatto oggi i tifosi della Juventus, sì, contro i giocatori, vale a dire lanciare bottiglie d'uova perché questo o è stupido, o dargli gli scappellotti, come è successo a Zebinà. Ma esatto, Luca, però mi faccia capire dove vuole arrivare. Cioè, lei dice i tifosi sono parte del gioco, sono quelli che permettono ai giocatori di guadagnare, però questo mi va benissimo, e sono quei tifosi che, gradendo lo spettacolo, amando il calcio, comprano gli abbonamenti in pay TV, vanno allo stadio, ma non pretendono di andare a parlare con gli attori, non pretendono di mettere becco nelle decisioni della società, di condizionare la società. Secondo me quella parte del tifo è quella che mette in prigione le società da molti punti di vista. Posso dire un'ultima cosa? Ma certo. Non è forse più violenza, fra virgolette, la reazione di giocatori come Zebinà, Felipe Melo, che sono pagati veramente milioni di euro, veramente tanti soldi, e si permettono di fare quelle cose verso tifosi che magari rinunciano a una giornata con la propria famiglia, magari rinunciano a una parte del proprio bilancio familiare che non è così grande come quello dei signori Zebinà, sì, Felipe Melo e compagnia bella, si permettono di offenderli. Beh, magari può darsi che ci sia qualcuno di questi tifosi che, sbagliando, e sottolineo sbagliando, magari una volta si arrabbia e gli dà uno scappellotto. Però vedo i nostri cugini del Toro danno uno scappellotto ai tifosi, oggi sono terzi in classifica. Senza quello non so se sarebbero stati terzi. Ma non lo so, Luca, io credo che si rimanga, io e lei, su posizioni molto civile, molto interessante anche il suo intervento, però si rimanga su posizioni un po' diverse. Ripeto, secondo me il tifoso è quello che va allo stadio perché apprezza lo spettacolo, perché tiene per una squadra, perché vuole andare a provare emozioni, perché non deve rinunciare a mangiare per andare allo stadio, perché questo è semplicemente idiota. Quindi è semplicemente un divertentissimo passatempo, secondo me, il calcio. Nel momento in cui diventa qualcos'altro, nel momento in cui diventa qualcosa che condiziona, che ti spinge ad andare lì a insultare, a dare del negro a Zebinà, a certi atteggiamenti, nel momento in cui diventa quello che abbiamo visto, allora non è più tifo, è un'altra cosa, ed è francamente qualcosa di, per me, di incomprensibile. Ecco, io insomma rimango allibito di fronte a questa posizione per cui tu, capitano della squadra, devi andare a spiegare a questi signori perché, per come, cosa succede. La reazione normale sarebbe quella di dire: signori, la squadra non mi piace, gioca male, perde, non ci vado, punto. Non vedo un'altra posizione possibile. Così come è storia recente quella dei tifosi che salgono sul pullman, che chiedono colloquio. Insomma, io torno a ripetere, secondo me le società devono fare grande attenzione ai tifosi, perché sono il loro patrimonio, però devono fare attenzione ai tifosi in altra maniera, creandogli dei luoghi civili in cui vivere la partita, creandogli un ambiente in cui quegli atteggiamenti, quei cori, quelle posizioni estremistiche non ci sono. Semplicemente questo, secondo me, poi, per carità, io tifoso non sono mai stato, quindi... Raffaele, provincia di Napoli, buongiorno. Raffaele? Sì, un momento. Sì. Pronto? Eccomi. Aspetta. No, stavo di là. Tranquillo? Sì, mi sente? Sì, la sento bene. Cosa sta facendo? No, ero andato di là a prendere il cellulare perché ho stato la stanza. Ah, ho capito. Senta, comunque volevo dire una cosa. Ho sentito un pochino il discorso del giornalista di prima sulla partita di ieri sera a Roma Inter, no? Sì. diceva che l'Inter, che a un certo punto dopo il pareggio la Roma rischiava anche di accontentarsi. Io, vedendo la partita tranquillamente, le dico sinceramente, sono tifoso della Roma, sì. Io penso che all'inizio, io anch'io mi sarei accontentato di un pareggio visto la rincorsa eccezionale che ha fatto la squadra di Vanini. Però vedendo la partita mi sembra che la vittoria della Roma ci sta benissimo. Il gol dell'Inter era in fuorigioco, hanno dato i soliti calci, si ricorda Chivu appena entrato dopo 10 minuti a i tacchetti, sì. Su Toni e Laido hanno fatto di tutto di più. Però Raffaele, la prego non mi sbricioli la partita in 100.000 episodi, non me la sbricioli, perché sennò torniamo al solito discorso: il gol era in fuorigioco ed era in fuorigioco, ci stava rigore su Brighi e ci stava rigore su Brighi, e l'Inter ha picchiato e il fallo di Chivu. Se sbricioliamo, se parcellizziamo la partita, facciamo diventare polvere di episodi, allora facciamo fatica. Però se parliamo della partita, la Roma non ha rubato niente, questo sia chiaro. Secondo me il risultato più corretto sui cartellini degli arbitri pugilistici in quella partita sarebbe stato un risultato di parità. Io ho avuto la sensazione invece che, come diceva prima Mirko Graziano, la Roma nel momento in cui ha subito il gol dell'Inter ha ovviamente subito il colpo, lo stesso stadio ha avuto paura, l'Inter stava giocando molto bene in quel momento, aveva raggiunto il gol segnato in fuorigioco ma con pieno merito sul piano del gioco, intendiamoci, e la Roma aveva, in tutta onestà, mi sembrava avesse la partita in mano. Ho in mente un episodio e un flash per ulteriore giustificazione di quanto sto dicendo, da aggiungere a quanto sto dicendo. Un tiro di De Rossi proprio in quel momento in cui l'Inter aveva la partita in mano, la Roma riusciva a recuperare il pallone ma non riusciva più a ripartire. È stato un momento in cui De Rossi ha provato un tiro da 40 metri senza nessuna chance, nessuna speranza, tiro ciabattato ovviamente senza nessun pericolo per Julio César, pur incertissimo ieri. Ebbene, in quel momento ho avuto la sensazione che la Roma avesse paura e stesse pensando di congelare il risultato. Non mi sembrava più una squadra assatanata come era nel primo tempo, mi sembrava invece una squadra che stava cominciando a fare due conti. Carlo, provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno Genta, sempre lucido, complimenti. Grazie. Senta Genta, sul discorso dei tifosi, io sono d'accordo con lei, ma se mi permette, le è sfuggito secondo me un ragionamento, oppure magari l'ha fatto ma me lo sono perso. Secondo me non si può pretendere comunque dai tifosi di uno sport abbastanza non matematico in un paese come questo di essere civili fra virgolette, cioè diciamo la verità, è un po' il concetto, se mi consente la citazione, un po' della folla manzoniana, no? Ok? Sì. Allora, sì. Allora voglio dire una cosa, lei stamattina ha letto il pezzo di Sconcerti sul Corriere, sì, bellissimo. Sì, sì, l'ho letto. L'ha letto, no? Sì. Allora, per dire, io credo che grandissima responsabilità, cioè non è un luogo comune, ce l'hanno gli attori. Cioè, io per esempio, allora io sono milanista, ma vivendo a Milano ogni giorno mi interfaccio con i tifosi interisti, no? Ho tantissimi amici. Ecco, per esempio lei mi dovrebbe spiegare una cosa. Com'è possibile, per esempio, che gli interisti possano osannare uno che poi in concreto sta facendo meno punti con una squadra migliore di Mancini, che gli ha disfatto l'ambiente e soprattutto, lei lo sa meglio di me, ormai giocare contro l'Inter è la partita del secolo. Allora voglio dire, questa non è la dimostrazione che alla fine, folla o non folla, la responsabilità questo, è sempre, Carlo, dell'attore. Mi perdoni, ma sì, ma va bene tutto, nelle discussioni con i suoi amici milanisti, va bene tutto, ma ci sta tutto questo, no? Ci stanno queste posizioni, ma lei quando va allo stadio vuole andare a parlare con i giocatori o vuole andare a chiedere, è uno di quelli spiegazioni? No, su questo avete ragione, però le dico, non pretenda dai tifosi di calcio, non siamo in America o no, anche in Inghilterra. Cioè, ma il tifoso ad accontentarsi si fa sempre in tempo, caro Carlo. Io quando vedo quelle cose non riesco a far finta di non riesco a farmene andare bene. Mi perdoni, non siamo in America, non pretendo nulla, però insomma, ripeto, ad accontentarsi si fa sempre in tempo e non è un grande accontentarsi, mi creda, quello che vediamo con questa gente con la bava alla bocca asserragliata intorno ad una squadra. Non trovo giusto accontentarsi, mi perdoni su questo. La ringrazio, torni a trovarci, ci fermiamo un attimo, rapida pausa, poi di nuovo qui, 800 24 00 24, numero verde. Il 29 marzo dalle 15 a mezzanotte Radio 24 seguirà i risultati delle elezioni regionali 2010 con una programmazione speciale. Approfondimenti, interviste, commenti, analisi e collegamenti dalle 13 regioni votanti, dal Viminale e dalle sedi dei partiti. Lunedì 29 marzo a partire dalle 15 su Radio 24. Past, Present, Future. Le collezioni della Fondazione Cari Verona e Unicredit Group a Palazzo della Ragione. Verona, 27 febbraio, 3 giugno. 90 capolavori da Dosso Dossi, Goya, Arturo Martini a De Chirico, Morandi e Andy Warhol per attraversare 4 secoli di arte europea. Informazioni e prenotazioni 199-199-111. Ho appena aperto un'azienda. Mail, telefonate. Chi mi offre una soluzione su misura? Fastweb Soluzione Impresa. Centralino, PC, internet, telefonia fissa e mobile come tu li vuoi. Per tutte le tue esigenze di comunicazione, scegli un partner vincente. Fastwebsoluzioneimpresa.it o 192-192. Come va lassù? Tutto bene? Quasi finito! Ma quanto carburante ci sta dentro sta tanica? Ci devo fare oltre 20.000 chilometri! E come fa con l'autostrada? È più grande del casello! Affrettati! Fino al 31 marzo, Forester Diesel con carta prepagata PostePay Subaru per rifornirsi e viaggiare gratis per oltre 20.000 km. Oppure B-Fuel al prezzo del benzina con un risparmio di 2.300 euro. Anche sabato negli showroom Subaru che aderiscono. Sai, ho conosciuto un tipo straordinario. È venuto a prendermi in ufficio, mi ha preso in braccio con cura e mi ha portata da lui. Poi mi ha gentilmente avvolta in una morbida gomma a piuma, messa al sicuro e sigillata. In un attimo mi ha spedito a quel paese. Viaggio comodissimo. Sono arrivata puntuale in perfetta forma. Lui sì che ci sa fare. Non mi sono mai sentita così importante. Mailboxes Etcetera si prende cura dall'inizio alla fine delle cose che vuoi imballare e spedire. 550 negozi Mailboxes Etcetera sono vicino a te. Scegli il tuo su mba.it. A tempo di sport. Sulla questione dei tifosi ci sono naturalmente vari messaggi, ad esempio: perché tutta questa smania di protagonismo? Non piace la propria squadra, non si compra il biglietto, è tanto semplice, Simone da Bergamo. Oppure rapporto tifosi-giocatori, tutta la vita Maldini. Sappiamo bene qual è stato il rapporto di Paolo Maldini, documentato anche dal suo amaro addio al Milan, il suo rapporto con la fascia più esagitata della tifoseria organizzata rossonera. Sempre a proposito tifoseria organizzata, un'altra cosa che a me non va giù, non capisco perché per andare allo stadio ci si debba organizzare e trincerarsi dietro gli striscioni, ma questo è tutto un altro discorso che ci porta lontanissimo. Il migliore in campo però è Roberto da Arezzo, che scrive: se non ci fossero i tifosi ci sarebbero gli spettatori e sarebbe meglio. Questo scrive Roberto. 349-238-6666 oppure 800-24-0024 per le vostre telefonate. Allora, un altro messaggio che è questo: se chiamate Filippo Maria Ricci, gli chiedete quando rientra Kakà, il brasiliano triste, ricco sfondato ma triste, scrive un ascoltatore. Filippo Maria Ricci, buonasera. Buonasera. Oggi si festeggiano i 60 giorni di assenza, 43 nella prima tappa e 17 nella seconda. Per cui qui la risposta non è semplice. Non è facilissima. Pellegrini, virgolettato di Pellegrini, spero di averlo la prossima settimana. Un virgolettato di, mi sembra, venerdì. La prossima settimana comincia domani. Ma con calma, prossima settimana, sì. Ma anche a rate. Sì, non è una data precisa la prossima settimana, non ci sono dei giorni. Adesso domenica prossima c'è un'altra partita a Santander e poi sabato 10 c'è una partitina Real Madrid-Barcellona. Sì, vedremo cosa succederà. Tanto oggi sulla Gazzetta ti è toccato ovviamente spargere incenso su Ibra. Grande Ibra, finalmente. Qua noi siamo onesti, voglio dire. Noi gli diamo anche del calloni, però poi quando bisogna dargli i meriti bisogna darglieli. Ieri ha fatto questo passaggio, questo assist di schiena, che qui in Spagna già viene definito la espaldigna, perché espalda in spagnolo vuol dire schiena. Lui ieri riceve questo cross dalla destra, vede che non ci può arrivare e semplicemente si tira su di spalle e la smorza per Messi che arriva. Purtroppo il portiere israeliano del Mallorca ha fatto una gran parata, altrimenti eravamo qui a parlare del miglior assist della storia o qualcosa di simile. Grandissimo genio, insomma, e mi sembra che ci sia tutto Ibra, insomma, capace di sbagliare dei gol facilissimi e poi però di inventarsi delle cose di questo tipo, in Spagna ovviamente sono andati assolutamente in invisibilio, e poi comunque ha avuto anche il merito di segnare l'unico gol del Barcellona, che è servito per rimediare altri tre punticini e mettere un po' di pressione al Real Madrid, che stasera si gioca il suo derby. Senti Filippo, come è stata gestita la grande Ibrahimovic al Barcellona, la questione Ibrahimovic al Barcellona? Ci hai raccontato che la settimana scorsa, no, di Guardiola, che ha detto dovrebbe però fare più attenzione signor Ibrahimovic a quello che dicono i suoi dipendenti, riferito a Raiola naturalmente. Come è stata gestita, sì, la primario, questione? No? Sì, esatto, no, gestita come al solito secondo me molto bene, no? Lui dice dovere primario del giocatore è diciamo controllare le parole del proprio agente, frase che io questa non ho mai sentito dire da più o meno nessun allenatore, insomma, è un messaggio chiarissimo, più chiaro di così non si può, e infatti poi Ibra ha risposto dicendo sì, comunque quello lui è un uomo fatto, può dire quello che vuole, però non sono io, lui è lui, è una persona, io sono un'altra, e se l'è cavata abbastanza bene. Dopodiché, a risolvere anche un po' la questione, ci sono tre gol consecutivi, no, in tre giornate diverse. Vabbè, il primo un regalo di Messi su rigore, però poi già il secondo importante, e poi dopo quello di ieri decisivo. Mi sembra, Guardiola ha detto un'altra frase, dice quando Ibra sarà contento ricomincerà a segnare. Lui è molto, questo è uno dei classici, un cavallo di battaglia di Guardiola, lui sostiene che i giocatori devono essere felici, tranquilli e dopo giocano bene. Sì, lo dice anche Leonardo, però adesso si vede che sono tutti tristi al Milan, No, c'è un grandissimo fondo di verità, poi dopo è chiaro che lui, come, e poi sottintende, dice è compito mio farli star bene. Ibra l'ha fatto star male, però se n'è fatta, per me alla fine di una panchina era diventata un po' una tragedia, quasi un po' tragicomico, insomma, no? Si è esagerato con questa panchina, e comunque si vede che è servito magari a Ibra, che è anche persona molto intelligente, perché per esempio al contrario di Kakà, Ibra è sempre molto disponibile anche per esempio nelle varie zone miste, stampa spagnola, svedese, italiana, lui non si tira mai indietro e sapeva benissimo che doveva far di più. Adesso sta facendo di più, infatti ieri quando poi si è presentato a fine partita davanti alla televisione ha detto no, ma niente di strano, dice io faccio solo il mio dovere, e che forse prima le cose non riuscivano tanto bene. Ha un'onestà di fondo che a me piace. Poi sono sempre dell'idea che non si nasconde. Sempre l'idea che ogni giocatore fa quello che gli consenti di fare, no? Quindi sì, capricci per se gli consenti di fare i capricci, si comporta da professionista, se non ammetti altro che non un comportamento professionale, come credo al Barcellona, caro Filippo. C'è il derby di Madrid? Esatto, questa sera c'è un derby bellissimo. L'ultima volta che l'ha vinto l'Atletico in panchina c'era El Sor Ranieri. 99, poi finiscono in serie, bellissimo, vincono il derby, finiscono in serie B, poi non l'hanno mai più vinto qua al Bernabeu. L'Atletico è così, è una squadra da questo punto di vista spettacolare per iperbole, per le sue contraddizioni assolute. Sì. E le due squadre sono separate solo da 34 punti. Quindi teoricamente il Real Madrid dovrebbe avere vita facile, l'Atletico ha una difesa inguardabile, però poi ha due grandi attaccanti come Agüero e Forlan. E puntano su Thiago, lo juventino in prestito, che con Real non ha mai perso 5 partite, insomma. Come sta giocando? Talismano. Come sta giocando? No, sta giocando bene, però è infortunato, non è detto che ce la faccia stasera. Ancora? Sì. Però quando gioca bene, adesso bisogna vedere se riescono a incerottarlo per stasera. No, sulla carta una partita, Real Madrid in casa ha sempre vinto sinora, quindi insomma segnando caterve di gol, però è un derby, quindi tutti aspettano, vediamo se il derby cambia qualcosa, probabilmente no. Adesso il divario con la terza è salito a 23 punti, no, 21 punti, sì, tra la seconda, pazzesco, le prime due e la terza. Pazzesco, è il distacco più ampio d'Europa, nettamente, a testimonianza del fatto che anche in Spagna la classe media non se la passa poi benissimo, questo è un dato di fatto acclarato. Grazie Filippo, buon derby. Grazie a voi. Alla prossima. Abbraccio. Grazie Filippo Maria Ricci. Adesso torno da Alberto e da Luca, uno da Alessandria e l'altro da Treviso. Partiamo da Alessandria. Alberto. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Ascoltavo con interesse le esposizioni degli altri ascoltatori riguardo a tifoseria. dove dicono che bisognerebbe, qualcuno ha detto che bisognerebbe anche accettare determinati comportamenti. Io invece la penso nel modo opposto e penso che abbia ragione lei, nel senso che comunque alla fine non si possono accettare da persone che uno ha chiamato anche clienti, non so se si possono chiamare clienti. Ma non lo so, chiamiamoli come vogliamo, però insomma, ripeto quello che ho detto prima, per accontentarsi fa sempre in tempo. Io non posso accettare di dire, vabbè, ma tanto il calcio è un gioco strano, si presta a scleri di questo tipo, si presta a esasperazioni e quindi ci può stare tutto e questi che vanno a vederlo investono la loro vita, il loro tempo, il loro denaro e allora va bene così. No, per me non va bene così. Assolutamente no, ma poi oltretutto io penso un'altra cosa, che dal punto di vista, io sono tifoso, ma tra virgolette non sono molto tifoso, sono simpatizzante della Juventus. La Juventus, la dirigenza della Juventus ha fatto degli errori quest'anno, si vede con Ranieri, abbastanza forti, sì. Eppure vabbè, al limite uno non va allo stadio, non compra il biglietto, se non la guarda più, voglio dire, ma non c'è bisogno di andare davanti ai giocatori e prendere ammazzate o comunque fare delle azioni dimostrative di violenza. E questo assurdo. Senza per forza essere americani, ma senza essere né americani né inglesi, senza per forza essere stranieri, semplicemente guardando le cose come dovrebbero essere viste, no? Poi se qualcuno lo fa in un'altra maniera, ci limitiamo io e lei a mettersi sulla montagna a non condividere. E ripeto, per accontentarci, caro Alberto, faremo sempre in tempo, al momento no. Assolutamente, ma poi io penso che sia anche un discorso di identificazione. Io seguo con interesse quelli che si accaniscono così tanto quando la squadra perde, no? E impazziscono, addirittura hanno dei problemi di salute piuttosto che cioè ci sono delle cose che sono pazzesche. Allora, io credo che fare? Ci si identifichi troppo, cioè proprio un meccanismo psicologico, ci si identifichi troppo con la squadra e questo secondo me non so quanto può essere giusto, perché è sì una valvola di sfogo, fa bene avere una valvola di sfogo, si lascia andare così, però identificarsi troppo con la vittoria, con la perdita di una squadra mi sembra veramente una cosa triste. Sì, o uno si chiama Nick Hornby e poi scrive dei capolavori, tipo Febbra 90, quando scandisce la sua vita sul ritmo degli insuccessi, ai tempi che adesso vince, dell'Arsenal, oppure tanto vale non somatizzare poi più di tanto. Ha ragione, caro Alberto, grazie, torni a trovarci. Traffico, poi Luca da Treviso. Q8 cerca nuove star. Parti con i velisti per caso. Scopri come su cercasistarq8.it. Vi presenta Strade in diretta. Traffico di rientro verso tutte le grandi città, molto intenso, ci sono anche incidenti e cantieri a causare code più lunghe. Verso Milano c'è molto traffico su tutte le principali direttrici. Sulla 4 ci sono code a tratti da Sirmione a Brescia Est. Per chi proviene da Torino, le code per 3 km tra Greggio e Via Andrate sono per un incidente nel quale è coinvolto una moto. Ci sono code per incidenti anche verso la 8, la Milano-Varese, sulla diramazione Gallarate-Gattico tra Castelletto Ticino e Besnate. Per un incidente anche le code verso Bologna, sulla 13 Bologna-Padova, tra Ferrara Sud e Bologna Interporto. Sempre verso Bologna ci sono code a tratti sulla 14 Adriatica da Forlì fino a Castel San Pietro per il traffico e per un incidente risolto. Il traffico resta bloccato da Piacenza verso Castel San Giovanni sulla statale 10, la Padana Inferiore, per un incidente. Per lavori invece le code verso Parma sulla 15 della Cisa tra Pontremoli e Berceto. 800 083622, il nostro numero verde per le vostre segnalazioni. Noi torniamo tra mezz'ora. Promo 24. Chi viaggia per lavoro deve pensare anche a sé, per questo è giusto pretendere un'auto sicura e affidabile. Passat EcoFuel e Blue Motion Technology garantiscono innovazione e comfort nel massimo rispetto dell'ambiente, con ridotti costi d'esercizio e minimi consumi. Passat 1600 TDI Blue Motion Technology è il nuovo diesel di terza generazione che con i suoi 105 cavalli permette di percorrere più di 1000 km con un pieno. E Passat 1400 TSI EcoFuel è l'unica con motore turbo a iniezione diretta bivalente benzina-metano da 150 cavalli. Grazie ai Blue for You Days fino a 3.000 euro di vantaggi e finanziamento a tasso agevolato in 6 anni. Offerta valida fino al 31 marzo. Informazioni e dettagli su www.volkswagen.it. A Tempo di sport. Sto nel frattempo divertendo moltissimo anche con i messaggi tipo questo: ascolto gli interventi nella trasmissione e mi sento un marziano. Se si vuole mettere bocca nelle vicende di una squadra, basta mettere un pacco di milioni di euro sul tavolo e così si può anche fare il cazziatone ai giocatori. Altrimenti, altra soluzione è andare al mare o al cinema. Fabio da Milano. Dario Ricci, buonasera. Buonasera Carlo, buonasera a tutti. Tra poco diamo un'occhiata, cominciamo a dare un'occhiata al basket con le partite in corso. Luca Treviso, buongiorno. Sì, buonasera dottor Genta. Buonasera. Ascolti, io l'ho chiamata per la Formula 1. Ecco, però benissimo, bravo. Però faccio una piccola divagazione sul calcio, perché devo dire, io sono un tifoso molto, molto tiepido. Sì. Mi trovo perfettamente d'accordo con quello che ha detto la persona che mi ha preceduto prima. Certo. Guardi, è esattamente la filosofia che ho in testa io rispetto a come si dovrebbe atteggiarsi rispetto a una passione, solo che mi viene un dubbio, che bisogna essere tifosi tiepidi per pensarla così. Per cui non so, ogni tanto... Ma no, perché? Ma perché, perché, perché tifosi, ma perché tifosi tiepidi? Semplicemente, anche essendo tifosi seri, veri, non, innanzitutto non c'è bisogno per forza andare in curva, perché... non c'è bisogno per forza di iscriversi, di tesserarsi, di mettersi dietro lo striscione, di cantare i cori che sono ormai in pochi casi divertenti, per la maggior parte o vecchi, ripetitivi o molto discutibili. E poi se uno vuole, pur essendo molto tifoso, andare allo stadio, compra il biglietto, va lì, ad esempio sarà pieno, tutto esaurito il San Siro per la partita con il CSKA di Mosca, cosa che non mi sorprende affatto. In tutta onestà, e poi si va a casa, normale, no? Si discute, magari ci si arrabbia anche, però non si va a parlare con i giocatori, almeno a me non verrebbe mai in mente di andare a parlare con i giocatori, francamente, fossi un tifoso pure acceso che va allo stadio. Luca, voleva dire di Formula 1, prego. Sì, rispetto al Gran Premio di oggi mi viene in mente che era un po' che non si vedeva più un po' di movimento così, ah. E devo dire che vabbè, la variabile sarà anche stata la pioggia, probabilmente ha inciso per la gran parte della situazione, però devo dire che due sono le considerazioni che mi vengono a fine di una giornata così. Uno, che se Newey sistema quella macchina lì comincia un ciclo che non so quanto tempo ci vorrà per far finire, perché semplicemente un altro pianeta, in sì. Prova e anche in gara. La Red Bull la intende? Sì, la Red Bull mi sembra una cosa che veramente non ci si avvicina a nessuna. Sono un ferrarista e un tifoso d'Alonso, però devo dire che se non si rompe quella macchina lì, la vedo dura. Se non si rompe o se non finiscono nella sabbia. Prego, la seconda? Sì, la seconda cosa è che è ancora presto per dirlo, ma forse oggi Button ha dimostrato che qualche caratteristica della Formula 1 analogica, se me la fai chiamare così, ancora oggi potrebbe servire, che sono quelle sensibilità di guida, di messa a punto e anche di saper attendere, certo. Che oggi hanno portato un pilota come Button bistrattato a più però Button, guardi Luca, davanti alla porta sbaglia meno di Milito. È uno che magari non ha grandi picchi, non è un campionissimo, però è difficile che se ha l'occasione non faccia gol. Mario Poltronieri, buonasera. Buonasera, ciao Carlo, buonasera agli ascoltatori. Hai sentito il nostro ascoltatore? Sì e no, forse se me lo riassumi... Guarda, diceva, oggi vabbè ci siamo divertiti, ormai dopo anni tutto sommato ad annoiarci davanti ai Gran Premi, improvvisamente l'esigenza dello spettacolo diventa stringente e oggi tutti a darsi di gomito, hai visto che ci siamo divertiti. Ma c'è una ragione. Sì, certo che c'è una ragione. Tutte le volte che piove c'è spettacolo. Solo quelli che studiano i regolamenti fanno finta di non saperlo. Ora, siccome Giove Pluvio non è disposto a fare un accordo per tutte le gare del campionato, forse la soluzione vera è di ridurre l'aderenza delle macchine. Guarda, le alternative sono due: o si fa l'accordo con Giove Pluvio, si mettono gli idranti a bordo pista, cosa anche forse più semplice, oppure si usa un po' meno fantasia nella produzione dei regolamenti e si lascia la matita ai progettisti e il volante ai piloti. Senti, ma aveva accennato l'ascoltatore anche a Vettel? Sì, a Vettel. No, diceva che la Red Bull, se riescono a metterla a posto, è una macchina pressoché imbattibile. Mi sembra pressoché imbattibile, ma anche fragile, anche nei suoi piloti. Appunto. Io però ho avuto la sensazione comunque che senza dubbio Vettel va fortissimo, la macchina senza dubbio va forte, però come si era previsto l'affidabilità lascia a desiderare, caso strano succede sempre a lui, evidentemente la sfrutta troppo. E il contrario di quello che è successo con Button, che viene considerato da tutti un pilota modesto, però poi sa sfruttare così bene la sua automobile che guarda caso poi alla fine, sia pure col colpo di fortuna di aver fatto un cambio che sembrava cervellotico invece si è rivelato vincente, è riuscito a portare a casa il risultato. Quindi secondo me Vettel ha bisogno di calmarsi un attimo. Nello stesso tempo il progettista, cioè Adrian Newey, deve vedere di dare affidabilità alla macchina, e sotto questo profilo domenica prossima che si corre in Malesia, dove si prevede che ci sia del caldo, anche questo può essere un elemento critico per la Red Bull. In questo quadro generale però non dimentichiamoci che se Alonso non fosse ripartito 18° dopo la carambola della prima curva, probabilmente sarebbe stato il protagonista assoluto della corsa. Quindi io direi che la Ferrari, nonostante tutto, per come si era messa la gara, può essere più che soddisfatta. Ha aumentato comunque il punteggio piloti, il punteggio costruttori. Gli avversari crescono, ma crescono non in proporzione. Parliamo di McLaren, parliamo di Mercedes. Quindi per la Ferrari direi che positiva. È andata ancora bene. Sì, giornata positiva per la Ferrari, che è stata costretta ad una gara... di una gara strana ad inseguire, tutto sommato ha piazzato terzo e quarto, e non, hai ragione tu, non è un cattivo risultato perché dà continuità comunque alla doppietta con cui aveva aperto il campionato. Senti, invece la domenica dei tedeschi è ancora così, al di là di Vettel che è probabilmente un futuro campione del mondo che ha talento da vendere, ma è ancora uno di quegli elementi, un elemento di fragilità nella catena Red Bull, ecco. Se mi permetti, e Schumacher. Fatti notare che un'altra cosa, sì. Molti hanno lamentato il fatto che il direttore sportivo non avesse fatto cambiare posizione ai piloti, cioè consentire ad Alonso, che è davanti nel campionato, di guadagnare più punti passando Massa. Secondo me invece è stata una scelta razionale, perché ci sono tre ragioni secondo me che richiedevano che questo non avvenisse. La prima è quella regolamentare, che non si potrebbe decidere la posizione dei piloti. Certo. La seconda è che date le premesse la possibilità di un incidente c'era, ma soprattutto voleva dire bruciare definitivamente Massa, perché se già la seconda corsa si dà chiaramente l'evidenza che la prima guida è allo spagnolo, questo si smonta del tutto. Ma non c'è dubbio su questo, insomma, la seconda corsa per un terzo posto non valeva la pena far saltare subito gli equilibri. Senti Mario, domenica prossima è Pasqua, ma 5 minuti ce li concedi, vero? Come no, siamo qui. Tutti in Malesia. Noi saremo qui in diretta, ricordo, dalle 5 alle 6, quindi ci fanno uno sconto di un'ora per la domenica di Pasqua, ma i temi saranno tanti a partire dalla Formula 1. Grazie Mario, buona domenica. Grazie a Mario Poltronieri, poi faccio sentire anche un paio di voci, ma intanto guardiamo cosa succede sui campi di basket. Sì, ottava giornata Carlo, siamo in prossimità dell'intervallo lungo tra il primo e il secondo tempo su tutti i campi. Allora i parziali: Banca Tercas-Teramo, Angelico Biella 26-31, qui mancano ancora 3 minuti alla pausa. All'intervallo invece Pepsi Caserta, Canadian Solar Bologna 35-36, alla pausa anche Carife Ferrara, Cimberio Varese 35-31, importanti risultati in vista della corsa salvezza. E poi Sigma Coatings, Montegranaro, Vanoli, Cremona 50-42. Stasera alle 20:30 Scavolini Spar Pesaro, Armani Jeans Milano. Si sono giocate già in giornata Benetton Treviso contro Napoli 169-29, e poi soprattutto alle 12 NGC Medical Cantù Lottomatica Roma, con la netta vittoria dei canturini 79-61. Mi sembra questo un risultatone. Roma che aveva battuto Siena, e se non è difficile o forse impossibile non si diverte. Oggi è andata Cantù a giocare comunque una partita in cui si chiedeva di dare sostanza all'exploit, no? Di dare continuità a quanto fatto. L'avevano detto subito dopo, l'aveva detto Boriccioli, immediatamente dopo aver battuto Siena. Abbiamo battuto Siena, però adesso vediamo cosa facciamo domenica a Cantù. Il risultato è questo, 79-61, è partita dominata dall'NGC che ha ritrovato l'infa e che troverà alla fine della sua strada anche i playoff. Io continuo a credere che Roma possa essere la finalista dello scudetto. Adesso vediamo come si disegna il tabellone dei playoff. però io credo che Roma possa essere finalista a scudetto. Certo è che non è esattamente una squadra che ha in questo momento, nella continuità di risultati, il suo elemento di forza. Dalle 8:30 alle 9 però torniamo a darvi tutti i risultati, salvo appunto quello del posticipo tra Scavo Spar Pesaro e Armanegis Milano, tutti i risultati del basket. Come diceva Dario Ricci, importanti le partite in testa coda, no Dario? Cremona, sì, che gioca a Montegranaro, Ferrara che riceve Varese, sono insieme a Scavo Spar Pesaro Armanegis Milano le due partite chiave. Eh sì, infatti Ferrara in vantaggio, abbiamo detto, di 4 punti, 35-31, mentre l'irrefrenabile Montegranaro di questi ultimi mesi allunga sulla Vanoli Cremona, 2 minuti alla pausa, 50-49 per ora per i marchigiani. Benissimo, allora ci fermiamo qui e rinnovo l'appuntamento dalle 8:30 alle 9 per commenti, voci dai campi di basket. Io per il momento ringrazio Giorgio De Luca per il lavoro in redazione e Pietro Lacorte in regia. Ci sentiamo più tardi.